La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, eccoci all'appuntamento con il cinema su Radio 24, come ogni weekend, come ogni sabato, come ogni giorno di questa estate, come ogni giorno di weekend di questa estate. Non manchiamo mai per raccontarvi tutto il cinema che c'è in sala e non solo, e per quanto riguarda questa puntata anche in mostra, perché siamo all'ultima puntata che precede l'inizio della Mostra del Cinema di Venezia 2015, dal 2 settembre al 12 settembre, l'appuntamento che tiene così attaccati al grande schermo e anche un po' alla radio per ascoltare le recensioni tutto il pubblico degli appassionati, una Mostra del Cinema di Venezia che come sempre sa alternare momenti di cinema che guarda verso il linguaggio, verso l'innovazione, oppure grandi maestri, grandi autori che si mettono in corsa, mettono in gara per il Leone, e anche momenti di popolarità, sempre coniugati chiaramente col cinema di qualità, che però servono un po' a dare quell'allure internazionale a un evento che ha una storia ormai plurisettantennale. L'anno scorso la Mostra del Cinema di Venezia cominciò con Birdman e abbiamo visto come è andata a finire, insomma. Tanti Oscar, uno dei film dell'anno senza dubbio, e non è la prima volta, anzi accade da qualche anno che Venezia sappia pescare meglio di altri festival internazionali dentro quella cinematografia che poi sa coniugare la qualità con il grande pubblico. Noi siamo già in collegamento con Boris Sollazzo, che sarà un po' la nostra punta di diamante nello schieramento della Rosa Purpurea a Venezia, che saluto. Ciao Boris, ben ritrovato. Ciao Franco, ben ritrovato a te. Allora, ci stai a punta di diamante, va bene, no? Giochiamo con il 4-3-2-1 e tu sei il centravanti lì davanti per cercare di segnare i gol per noi. Mi sono commosso perché di solito sei meno generoso nelle... Ti faccio fare il mediano di spinta, lo so, però stavolta dai, questa me la tengo. Beccati questa. Senti Boris, allora, dicevamo, l'anno scorso cominciò con Birdman, quest'anno come si comincia e soprattutto quali sono i film, così se dovessi citarne a memoria due o tre del vasto, vastissimo palinsesto veneziano, dai quali possiamo aspettarci una strada come quella? Ma guarda, io cercherò di dire i miei magnifici sette e sarò un po' nazionalista. L'inizio è molto interessante come al solito, perché arriva Everest, che mi sembra anche un'ottima metafora della situazione del cinema in questo momento, in particolare anche del Festival di Venezia, che si trova a dover scollinare una vetta molto pesante, che è il possibile addio di Barbera, che è uno dei migliori direttori avuti negli ultimi decenni, in un periodo in cui è difficile trovare qualcuno che possa prendersi una responsabilità e anche un onore come questo di Venezia. Però vedremo, insomma, parleremo sicuramente alla fine di Venezia. Everest è un film di un regista molto interessante come Baltasar Kormákur, uno che ha saputo benissimo inserirsi all'interno di un cinema indipendentissimo, molto coraggioso, e allo stesso tempo a fare blockbuster o film particolarmente leggeri, con spari, divertimento, aforismi in bocca a personaggi improbabili. C'è un Jake Gyllenhaal molto interessante, che dopo Southpaw è in un altro ruolo estremo, c'è anche Josh Brolin, quindi attendo moltissimo questo film d'apertura, anche perché per tradizione moderna ormai Venezia non sbaglia un film d'apertura nemmeno se ci prova. Sono in grande attesa dei quattro film italiani in concorso: Il Bellocchio Vampiro, Messina, Gaudino, che torna dopo tanti anni e che in qualche modo viene rispolverato da un cinema che lo aveva messo da parte, e poi quel Guadagnino che a Venezia aveva fatto con Io sono l'amore benissimo e che fa un'operazione pazza delle sue, cioè un remake della Piscine, quindi davvero rischia o la gloria o il disastro. Sono felicissimo che fuori concorso, e anzi forse io l'avrei messo anche a concorrere per una volta, anzi vista la sua sfortuna, capace che avrebbe vinto proprio in questo caso Caligari, Non essere cattivo, col suo terzo film, un altro completamente messo da parte dal cinema, e anche lui si è messo da parte, con Valerio Mastandrea a fare da produttore. Un film che va a Oscar 1995, ancora una storia di droga, è un film che aspetto molto, anche se è un film forse più classico, Black Mass, con Johnny Depp, di Scott Cooper, molti ne parlano come di un piccolo Michael Mann. Sono molto in attesa di vedere se Johnny Depp è, come dire, ormai nella china di quell'attore un po' stereotipato, che lo stereotipo se l'è cucito addosso, o se riesce a trovare una nuova linfa. E poi c'è Wiseman, c'è veramente tanto. Devo dire che Barbera, in uno dei momenti più difficili per Venezia e per il cinema, posso piacere o non piacere come direttore, ha sempre cercato la costruzione e il disegno di un programma molto molto interessante, coerente, approfondito. Non ha cercato il nome per il nome, ma sempre un qualcosa che fosse più esteso, più ampio, e questo è molto interessante. Questo programma pare abbia stupito pure lui, nel senso che quando è stato presentato c'è stato un entusiasmo che lui non si aspettava. Vedremo se poi questo entusiasmo sarà suffragato dai fatti, insomma, assolutamente, dai 10 giorni. Ecco, ne parleremo ovviamente anche e soprattutto nella prossima puntata della Rosa Purpurea, che vivrà molto anche di film di Venezia. Hai detto di Johnny Depp in Black Mass, ma sono attesi sul red carpet veneziano Vincent Cassel, Tilda Swinton, Leonardo DiCaprio, tanto per dare solo i nomi così più altisonanti del cinema internazionale. Poi parliamo anche chiaramente di cinema italiano. Boris, stai con noi, perché appena dopo la viabilità passiamo a parlare del cinema che c'è in sala invece in Italia, e ce n'è davvero tanto e nuovo questo weekend, 12 nuovi film, insomma la stagione è ricominciata. La Rosa Purpurea. Ed eccoci qua, la Rosa Purpurea, seconda parte, come promesso, a dedicarci ai film che sono arrivati invece in sala. Dicevamo, sono 12 nuovi film, ve li elenco. Quando c'era Marnie e Blessed, Il Grande Quaderno, In un posto bellissimo, La Bella Gente, Love is in the Air, Minions, Mirafiori Luna Park, Partisan, Professore per Amore, Qualcosa di Buono, Taxi Teheran, Quando Troppo, Quando Niente, Però la gente è tornata dalle ferie, e quindi, quasi tutta, diciamo così, e quindi i distributori hanno riempito di nuove proposte il cinema estivo. E allora, con Boris Sollazzo, noi cominciamo a raccontare un po' La Bella Gente, il primo film del quale vogliamo dedicarci. Vogliamo dare spazio al cinema italiano in questa puntata, perché ci sono molte proposte interessanti. Questa è una storia diretta da Ivano De Matteo, con nel cast Elio Germano, Monica Guerritore, Antonio Catania, che fra poco sentiremo, tra l'altro, perché è protagonista anche di un altro film in questo weekend. E dicevo, storia di una coppia di gente bene, gente di cultura, di ampie vedute, cinquantenni che hanno fatto abbastanza successo. La loro vita cambia il giorno in cui, mentre si sono su una strada di periferia, assistono al pestaggio di una giovane prostituta da parte di un uomo su questa stradina che porta verso la strada statale. Ebbene, in quel momento il fremito per provare a salvare questa ragazza cambia la loro vita, ma forse mette a nudo anche la loro vera anima. Nelly, noi veniamo qui per le vacanze. Siamo appena arrivati e l'altro giorno ti ho vista. Io mi occupo proprio dei problemi delle ragazze come te. Ciao, io sono Paola. Nadia. Tutto bene, sì? Lei è Nadia, la figlia di un amico di papà. Però da 20 a 1, entro 3 giorni se la porta a letto. Guarda che spettacolo! Ma io pensavo che tu fossi innamorato di Nadia. Innamorato adesso? Innamorato? Come la sposo pure una così? La stronza che sono! Chiamo polizia, di che hai rapito puttana. Basta, vattene via. Boris, pensieri e ripensamenti in una coppia borghese, a provare a mettersi in gioco è sempre una cosa molto difficile, e molto spesso capita anche che tira fuori il peggio di noi. Assolutamente sì, quando parlavi descrivevi questa coppia, a me veniva un'etichetta molto facile, molto anche aggressiva. Ma che ben fotografa, secondo me, Guerritore e Catania in questo film, che è radical chic, cioè quella classe borghese che si considera aristocrazia intellettuale, che si sente moralmente superiore, che a un certo punto, di fronte alla realtà, pensa di avere la verità in tasca, pensa di avere la traduzione di tutti i suoi sani principi straordinari, no? Molto politicamente corretti, e pensano di poterli attuare per quel malcelato senso di superiorità. Quello succede con il personaggio bellissimo di Monica Guerritore, tra l'altro, che sente il dovere di fare qualcosa, sente in fondo il dovere di essere coerente con quello che ha sempre detto, con quello che ha sempre sostenuto nei salotti bene, scoprendo però che i salotti bene poi, quando vengono sporcati di fango, i loro problemi cominciano ad averli, e soprattutto la padrona di casa non è così tollerante verso le impronte di fango rispetto a quanto credeva di essere. È una metafora magari non perfetta, ma rende secondo me l'idea di questa trilogia che noi adesso vediamo insomma in capovolta, perché La bella gente è un film del 2009, La bella gente è un film che ha avuto successo in Francia e che in Italia addirittura è stato ostracizzato a livello che al Teatro Valle, quando ci fu una proiezione, ci fu una denuncia, è una delle fotografie dello strozzamento del nostro sistema distributivo cinematografico. Arriva adesso, quando il secondo e il terzo capitolo della trilogia sono già arrivati, ovvero gli equilibristi, che hanno fatto vincere due David Donatello a De Matteo, uno dei quali appunto a Valerio Mastandrea, e poi i nostri ragazzi, una trilogia della famiglia. La chiama De Matteo, giustamente, che racconta molto delle nostre ipocrisie. Film io l'ho trovato straordinario, è un film ferocissimo, un film che racconta i ben pensanti e benestanti dalla parte sbagliata, è un film che utilizza gli attori in maniera eccezionale, perché Antonio Catania dimostra secondo me di essere il Tom Hanks italiano, ma in Italia è difficile far avere successo a un Tom Hanks, però ha una capacità, una grandissima varietà di registri, una capacità di penetrare all'interno dell'immaginario dello spettatore con quella sua faccia normale e quella sua intensità emotiva che rimane sempre sotto traccia. Monica Guerritore, in un personaggio sopra le righe, è veramente molto molto brava, riesce davvero a incarnare anche quello stereotipo, non facendolo diventare stereotipo. Mi piace sottolineare anche la bravura di Elio Germano, figlio viziato, in un lavoro è in un'opera che ce lo propone in maniera molto diversa da come siamo abituati, e anche molto diversa da come possiamo immaginarcelo. Una fotografia molto secca, molto ruvida, ma anche molto elegante, come appunto è quella classe sociale. Insomma, La bella gente è davvero, mi verrebbe dire, il film della settimana e forse anche il film dell'anno, però dovrei parlare del 2009, perché allora uscì, quindi diciamo sicuramente il film dell'anno del 2009, ecco, però che vi consiglio di vedere oggi. E allora La bella gente apre le nostre proposte di questo fine settimana. Fra poco invece ci dedichiamo ai Minions, che hanno già cominciato a galoppare al botteghino. Prima però un altro ritorno, finisce l'estate anche in questo, per la nostra trasmissione, il ritorno al nostro DVD Game. Come sempre, come ogni anno, da anni vi regaliamo il meglio del cinema in un video attraverso il nostro gioco, piccolo, semplice, ma al quale potete partecipare scrivendo alla Rosa Purpurea @radio24.it. Il gioco è indovinare una delle due tracce, delle brevi tracce misteriose di un film che appunto dovete riconoscere e che dovete dirci. Ascoltiamo. Sono le più belle che hai? Oh, non fa niente, nessuno le vedrà. No, rovineranno l'insieme. Svelta, svelta, toglietele. Me la cavo bene con le scarpe. E allora, che film è? Ditecelo, scrivetecelo alla Rosa Purpurea @radio24.it. Provate a indovinare il film, mettete il titolo e anche il vostro indirizzo privato, perché se siete fra i più bravi e veloci riceverete poi a casa il Blu-ray di questo film. Una seconda traccia la semineremo fra poco. E dicevamo, allora parliamo dei Minions, che hanno cominciato a seminare incassi nei cinema italiani, sì, dal loro primo giorno di programmazione giovedì scorso. Era del resto il film più atteso dell'estate, anche quello più pubblicizzato, questo spin-off di Cattivissimo Me con questi personaggissimi, questi personaggini gialli, piccoli, irriverenti e molto molto simpatici, che assumono vita propria e diventano un film. Andate a Villaggio Cattivi, vero? Tomata! I miei cattivi preferiti mi autograferanno la rivista Scarlet Overkill. Se io fossi un minion, ecco perché vorrei lavorare. E voi, talento da cattivo? Hello, la la la, la la la. Questo non è né cattivo né un talento. Signore e signori, la super cattivissima che aspettavamo tutti, Scarlet Overkill. Quanto è bello essere cattivi, eh? Lavorate per me e ogni vostro sogno si avvererà. Rispetto! Potere! Banana! Banana! Allora, Allora Boris, si ride moltissimo, devo dire, perché questi sono personaggi molto buffi, e si ride in maniera collettiva, potremmo dire, perché i Minions hanno questo, cioè sono tanti e non hanno un protagonista assoluto, sono davvero una sorta di opera collettiva. Assolutamente sì, recuperano la felicità di racconto che hanno altri gruppi molto buffi come i Puffi o i Muppets. A me ricordano molto i Muppets, perché ognuno di queste fette di massa, in questo caso anche molto simile, diciamo, la differenza è che magari hanno un'espressione più o meno intelligente, uno o due occhi, ma sono tutti molto simili, no? In questo anche molto simpsoniani, hanno una caratterizzazione molto forte e molto molto divertente. I Minions però sono altro rispetto a un cartone di massa, un cartone che utilizza la collettività per raccontare tanti pezzi di noi. I Minions sono un blockbuster con sperimentazione. L'abbiamo chiamato spin-off, ed è vero, però di fatto è un terzo capitolo di Cattivissimo Me e forse uno dei più interessanti, perché ha il coraggio di fare quello che molti cartoni non hanno fatto. Di solito quasi tutti i film dell'animazione hanno dei personaggi surreali, completamente pazzi, anarchici, che sono la forza di quell'animazione, ma che narrativamente rimangono in un angolo. Dare a quell'angolo invece la centralità che c'è nei Minions e mettere di spalla tutti i personaggi più umani, più normali, quelli che poi tra l'altro vengono doppiati dai vari in America, Sandra Bullock, Geoffrey Rush, e via dicendo, e da noi da Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Alberto Angela, molto autoironico nel suo doppiaggio in italiano, è un esercizio di coraggio straordinario. Se poi l'esperimento non è solo visivo, perché voi vedrete insomma un racconto che pesca negli anni 60, pesca nell'immaginario di Charlie Chaplin e Buster Keaton, perché di fatto è un film quasi muto, perché incomprensibile nei fonemi di questi piccoli cosetti gialli, che ancora non abbiamo capito se sono banane, patate, microsupposte, bisogna ancora capire che cosa siano realmente. Sono Minions, ecco, come dicevi tu, personaggini e personaggissimi, e appunto c'è questa rivoluzione semantica in cui questo gramelò alla Dario Fo, che mischia italiano, francese, spagnolo, inglese e anche una lingua tutta particolare, non è comprensibile, ma è istintivamente arriva lo stesso allo spettatore. E lo stesso vale per poi i segni grafici che sono molto vintage, se vogliamo, non hanno bisogno degli effetti speciali a cui siamo abituati anche nei film d'animazione, ma allo stesso tempo sono modernissimi. E poi a livello di scrittura, trovare questo politicamente scorretto, delizioso, dolce, di un gruppo di bonaccioni in verità che vogliono essere cattivi, le tentano tutte pur di essere cattivi e in verità sgambettano i cattivi perché sono troppo goffi per esserlo, sono una bella fotografia della nostra società, cioè di una società in cui i buoni vorrebbero essere cattivi per sopravvivere e i cattivi vorrebbero apparire buoni, e qui torniamo alla bella gente, e spesso ci riescono. E quindi anche i Minions, devo dire, sono un mio film del cuore. Lo consiglio, andateci, nonni, papà, figli, nipoti, perché tra l'altro le citazioni, ripeto, vanno da Chaplin a Jim Hendrix fino ad arrivare appunto agli ultimi accadimenti della nostra società, quindi diventa un film delizioso. E allora, super promosso i Minions anche dal pubblico, primo giorno di programmazione di giovedì, 2 milioni di euro in Italia, chissà che cosa combina nel weekend, ve lo faremo sapere la prossima settimana. Linea ancora alla regia, fra poco torniamo insieme, c'è ancora cinema da raccontare qui su Radio 24. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, alla terza parte del nostro programma, prosegue nell'analisi e nella presentazione dei film, dei nuovi film che arrivano in sala, che sono arrivati in sala in questo fine settimana. Riprendiamo da un titolo, anche questo molto atteso perché molto annunciato, si intitola Qualcosa di Buono, è un film di quelli che, come dire, mettono di fronte un attore, un'attrice in questo caso, a una prova di quelle che si sognano magari per tutta una vita in termini termini di recitazione, e che però cerca anche di mettere in risalto il rapporto, la diversità fra due persone, che diventa poi una sorta di mutua assistenza, di mutua necessità l'uno dell'altro. In questo lo anticipo già, ricordando un po', anche se in toni totalmente diversi, il Quasi Amici, che aveva tanto fatto, potremmo dire un Quasi Amici al femminile in un certo senso. È la storia di Kate, una pianista classica, bella, Hilary Swank nel film, la protagonista, elegante, a cui è stata diagnosticata, viene diagnosticata a un certo punto la SLA, malattia che noi siamo abituati ad accoppiare, ad accostare soprattutto ai nomi di sportivi. Vuoi che il primo ad averla, almeno a riconoscerla, fu Lou Gehrig, di fronte a lei, quando il suo corpo non ha più la capacità di fare da sé, arriva una ragazza che deve di fatto essere un'assistente, un po' anche una badante, una ragazza molto giovane, Beck, interpretata da Emmy Rossum, estroversa, incasinata, un po' pazzoide. I due mondi molto diversi, invece di collidere, si attraggono inevitabilmente, anche se la famiglia di lei vorrebbe qualcosa di un po' più assestato, ma sarà proprio questa energia di questa ragazza a regalare alla protagonista Kate un finale di tempo, diciamo così, degno di nota. Vediamo, la tua ultima esperienza lavorativa l'hai fatta in un ristorante. E dimmi, sai niente di persone affette da gravi malattie degenerative? È una mezza sciroccata, te ne rendi conto? E tu saresti responsabile della vita di qualcun altro? Se non mi ritieni all'altezza di assisterti, allora licenziami e trovati una cazzo di tartaruga. Puoi abbassare il tono della voce? Che diavolo ci fai qui? Qualcosa di buono. Per la prima volta vorrei soltanto urlare. Boris, uno di quei film dal finale, come dire, già scritto, e che però ti tengono con il cuore in mano per tutto il film. Io ho visto gente piangere al cinema quando è stata fatta l'anteprima stampa, ripeto, pur sapendo, anche perché c'è un libro, un bestseller di grande successo alle spalle, pur sapendo come andava a finire, ma commuovendosi lo stesso per questa parabola, per questa storia e per questo incontro. Sarà anche che le due attrici funzionano bene? Soprattutto per quello, perché in verità il film non è assolutamente perfetto, però Hilary Swank e Emmy Rossum sono un'ottima coppia. C'è l'umiltà di guardare ai modelli che sono appunto il bestseller, è anche Quasi Amici, come dicevi tu, perché c'è veramente molto di quel film, il tentativo di alleggerire con la commedia, il fatto che il malato si renda conto di aver bisogno di una spinta vitale che il suo ambiente non gli può dare. A proposito di bella gente, pensiamo al marito di Hilary Swank in questo film, insomma, talmente protettivo da aver paura di romperla nel momento in cui debbono essere marito e moglie, o ai genitori di Hilary Swank, e poi appunto all'inserimento all'interno di questo circolo vizioso, vezzoso, chiamiamolo come volete, di un elemento esterno molto anarchico che sostanzialmente lo manda piedi all'aria. E Qualcosa di buono forse non ha l'efficacia, la rotondità, la perfezione narrativa, diciamo, di Quasi Amici, anche commerciale, e non ha neanche la forza autoriale di film come Million Dollar Baby, che chiaramente probabilmente è nella mente di Hilary Swank nel rifare questo film. È però una sua leggerezza, una sua forza, e forse la dimostrazione è proprio nel fatto che la Swank ha l'umiltà di produrre un film con un regista non straordinario come Wolf, non tanto per essere lei la protagonista, perché sebbene all'inizio noi viviamo questo crollo, la difficoltà di una donna che si era costruita una vita che non poteva prevedere la SLA, appunto, una grande pianista, una casa a due piani, una vita attiva, tutto viene spazzato via da una malattia così debilitante e degenerativa, e lei deve affrontarlo in qualche modo e sembra essere l'unica ad essere capace, ma la verità è che soprattutto nella seconda parte del film a diventare la protagonista assoluta è Emmy Rossum, questa che all'inizio sembra lo stereotipo della studentessa un po' distratta, tabagista, ritardataria, e che poi assume sempre più una profondità. E la bellezza di Hilary Swank da grande attrice è che a un certo punto nel film, forse anche senza la consapevolezza del regista e della scrittura, fa da spalla ad Emmy Rossum. Emmy Rossum diventa la protagonista. Emmy Rossum ha un'occasione unica, ancora più grande di quella di Larry Swank, anche se, come dici tu, il ruolo di quel tipo di malattia è il ruolo che tutti sognano e che spesso viene anche premiato, no? Vediamo Redman e compagni. E però invece la Rossum si prende questo spazio, la Swank glielo lascia e dimostra di essere una straordinaria coppia, perché effettivamente all'inizio è la Rossum che spalleggia la Swank, alla fine è la Swank che spalleggia la Rossum, e sono loro a tenersi sulle spalle veramente tutto il film, e ce la fanno alla fine abbastanza bene. Non è profondo e sensibile come ce lo aspetteremmo, qualcosa di buono, ma è efficace ed empatico come dovrebbe essere. E tra l'altro fai bene a sottolineare le qualità di Emmy Rossum, Boris, perché è un'attrice molto completa, sebbene ancora molto molto giovane, insomma non ha ancora 30 anni, però forse molti di voi non sanno che è la protagonista e cantante del Phantom of the Opera, del musical al cinema. Ricorderete il film di una decina d'anni fa più o meno sul fantasma dell'opera? Ebbene, la protagonista femminile, perché lei è anche una ottima cantante, lo dimostra anche in questo film, era proprio Emmy Rossum, che è cresciuta ed è cresciuta bene. Spero che per questa attrice newyorkese ci sia la possibilità di affermarsi con ruoli anche di profondità drammatica, perché qui ha dimostrato di saperli tenere in piedi. Dico anche altre due cose: che qualcosa di buono, un titolo originale che è molto meglio della traduzione italiana, cioè You Are Not You, e questo secondo me dice molto di questa malattia, e che forse fra gli esempi, diciamo così, a cui possono essersi ispirati soprattutto Hilary Swank, c'è la Julianne Moore di Still Alice, perché anche quello era un film che raccontava questa progressiva caduta con totale autocoscienza di una donna ancora giovane dentro in una malattia che non dà speranza. E allora questo è qualcosa di buono. Noi a questo punto giochiamo insieme di nuovo con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Quasi dimenticavo, rammenta, la magia avrà una sua durata. Quando sentirai l'eco dell'ultima campana, all'ultimo rintocco della mezzanotte, l'incantesimo terminerà e tutto tornerà come era prima. Insomma, la nostra Grazia Gali in redazione nel preparare questa clip si è commossa, ma per tutte le ragazze di tutti i tempi, diciamo così, questo è un film inevitabile da sempre. E allora, La Rosa Purpurea, @radio24.it, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray che abbiamo a disposizione, che sveleremo la prossima settimana. Tempo anche per un altro film, parliamo di Partisan, il film che ci rende sullo schermo un protagonista della Mostra del Cinema di Venezia, l'abbiamo citato poco fa, Vincent Cassel. Il film è firmato da Ariel Kleiman e ascoltiamo la clip. Che cosa preferisci? Farti colpire o colpire per primo? Colpire per primo, logico. È importante apprezzare le cose che ami quando lei è accanto a te e distrugge chiunque tenti di far loro del male. Ma quando sarai grande e ti ricorderai di me e di tutto quello che ti ho insegnato, dirai: Gregory aveva ragione. Boris, potremmo dire storia di un educatore un filino esagerato, se vogliamo, perché Gregory è il leader di un gruppo che assiste donne e bambini maltrattati, ma nella sua diciamo così didattica c'è anche di insegnare ai bambini anche l'omicidio, cioè un'autodifesa estrema. Tocca temi importanti e li tocca con come dire, con il coraggio che hanno molto spesso alcuni film francesi di arrivare oltre quello che sembra essere il limite definito di un certo tipo di tematiche. Sì, secondo me va fatta una piccola triangolazione con un altro film che esce oggi per capire benissimo Partisan, e con un film che è andato a Cannes. Faccio velocemente la triangolazione per farmi capire, perché Partisan racconta di una comunità che è in qualche modo drogata da tutti i difetti della nostra società, che cerca di difendersi e decide, come spesso tra l'altro si fa in politica ma non nel privato, di rispondere con la stessa moneta, cioè di difendersi nell'unico modo possibile, secondo loro, che è quello della violenza che deve essere pagata con la violenza. Cassel è bravissimo, è quasi da cigno nero nel momento in cui fa questo leader che è pronto a tutto, è pronto a far andare i propri allievi fino al termine estremo della loro sopportazione, ma anche della loro morale, e lo fa tra l'altro creandoci un problema, perché lo fa verso piccoli fuscelli, insomma, e non verso persone strutturate. E mi ricorda molto il film Blast, film greco molto bello che esce anche oggi, e che anche quello, in maniera completamente diversa, complementare, quasi capovolta, racconta di come una comunità ormai spezzata dentro da una crisi finanziaria, economica e anche morale, cambi le proprie regole di ingaggio della vita e non riesca a ritrovare una normalità. E c'è un altro film greco che mi ricorda molto Partisan, che è The Lobster di Yorgos Lanthimos, che non a caso greco, ma non a caso molto vicino a Partisan, in cui si vede invece la costruzione di una comunità che decide di come dire, reagire a una sorta di dittatura della morale con una violenza assoluta della libertà, cioè imporre la libertà con la stessa forza di quella dittatura. E la forza di Cassel è proprio questa, cioè incarnare un impeto, un animo, una volontà estremamente giusta con i metodi sbagliati, e lasciarti là a essere un po' partisan, cioè partigiano per lui, a essere dalla sua parte, e lo spettatore si deve interrogare come mai trova alla fine quasi giusto quel tipo di reazione. Il tutto è affidato a una regia molto interessante, a un Cassel che gigioneggia, ma che in questo ruolo lo fa bene e lo fa il giusto, e ha un piccolo protagonista davvero straordinario che è forse la chiave di volta del film. Poteva essere uno dei tanti film che raccontava questo, come L'Onda e come tanti altri film, e che andava su un sentiero molto, molto facile. Grazie a questo bambino diventa qualcos'altro, diventa un'indagine privata e pubblica su noi stessi e su cosa siamo diventati e su quello che potremmo diventare portando all'estremo certi difetti della nostra società. Quindi film molto interessante, anche quando magari poi a livello narrativo e visivo un po' scade, anche perché tiene un tono molto alto, però molto molto interessante. E allora Boris, grazie davvero per averci raccontato anche questa settimana la tua versione dei film in sala. Noi ci risentiamo la prossima settimana da Venezia per raccontare tutto quello che si starà muovendo al Lido per la mostra del cinema. A risentirci. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora a questo punto viabilità di nuovo, fra poco torniamo perché c'è un altro film, anzi altri due film da presentarvi fra quelli in uscita, e di uno, Mirafiori Luna Park, avremo il protagonista, Antonio Catania, fra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta La Rosa Purpurea. Ed eccoci allora alla Rosa Purpurea, quarta parte, ancora dedicata alle tante uscite in sala di questo prolifico fine settimana di fine agosto. Parliamo di Mirafiori Luna Park, è un film che mi ha subito preso, vuoi perché racconta una storia che ricordo anche personalmente, poi quanti di noi non hanno avuto un parente, magari i genitori, magari uno zio che ha lavorato in una grande fabbrica del nord, in questo caso la Fiat di Mirafiori, ma poteva essere l'Alfa Romeo di Arese, insomma, e che ha raccontato le storie della fabbrica come le storie quasi epiche di un periodo di grande fatica ma anche di grande solidarietà umana. E questo film ci racconta che cosa è rimasto di quelle storie, ce lo racconta così. Saltavamo sopra, come gli indiani. È vero. Tutto girava. Come si chiamava? Lo ricordo. La giostra. La grande giostra. Se si entra, cosa rischiamo? Scasso. Violazione di domicilio, procura d'allarme. Tu non sai cosa vuol dire stare 9 ore davanti a un computer. So cosa vuol dire 9 ore in piedi alla catena di montaggio. Ragazzi, abbiamo fatto la scoperta del secolo. Le vogliamo rimettere a posto? Sì. Facciamole come nuove. In breve la storia, tre ex operai, potremmo dire quasi definirli reduci in un certo senso, della Fiat di Mirafiori, vengono sgomberati perché il nuovo avanza e deve avanzare dalle ruspe dei loro orticelli urbani e decidono di occupare la vecchia fabbrica di Mirafiori ormai chiusa, in disuso, un'occupazione poco più che simbolica, andarci dentro e magari piantare qualche fagiolino lì dentro. Però chiaramente l'ingresso in quel luogo fisico rianima tutta una serie di fantasmi che sono anche fantasmi positivi, sono i fantasmi che ti accompagnano quando rientri in un luogo della tua anima e che rimettono in moto anche dei meccanismi quasi politici all'interno dei tre protagonisti, alle prese anche con situazioni familiari che raccontano come di quella generazione del tanto lavoro, delle lotte operai eccetera, poi alla fine alla generazione successiva, quella di chi oggi ha 40 anni più o meno, sia rimasto e arrivato davvero davvero poco. Fra questi tre protagonisti c'è Antonio Catania, che è in collegamento con noi e che saluto. Ciao Antonio. Ciao a tutti. Ciao. Allora, è un film interessante intanto per la cifra che Stefano Di Polito, il regista, ha scelto, che è una cifra molto poetica, molto quasi fiabesca, e non a caso a più riprese qualcuno di voi tre nonni, te, Alessandro Haber e Giorgio Colangeli, racconta ai loro nipotini la fabbrica come una fiaba, l'abbiamo sentito anche all'inizio della nostra clip. Però c'è anche una riflessione su una generazione che, come dire, come dicevo prima, non è riuscita, o forse il problema è che chi è seguito non ha capito quelli che erano gli sforzi e il valore di quelle lotte, di quegli sforzi, di quella dignità conquistata sul campo, in fabbrica, in quegli anni. Sì, è vero, sei stato molto bravo, hai raccontato bene tutti i temi di questo film, che non sono pochi, hai detto la parola giusta, fantasmi, no? Perché no, è strano, perché dopo tanti anni di lotte politiche, di lotte di classe, gli operai, gli studenti, no? Questa categoria che era, doveva essere trainante per il paese, a poco è andata impoverendosi sempre più, no? Oggi l'operaio è un ricordo quasi rispetto a quello che era il passato. E quindi è un pochino messo da parte, perché un po' il progresso è andato avanti, no? E ci sono le macchine, ci sono le grosse industrie, non esistono più, si sono spostate all'estero, sono tanti motivi per cui, però queste erano delle persone vere, vive con le loro famiglie, la loro dignità, come detto, con il loro orgoglio, l'orgoglio di partecipare alla costruzione di macchine belle di cui si vantavano, no? Di far parte di un progetto creativo, di costruzione, eccetera. Sentirsi inutili per queste persone è diventare un po' dei fantasmi, e quindi la ricerca di ancora di essere vivi in qualche modo. Ecco Antonio, la sensazione anche vedendo il film è che dentro quelle mura di quelle fabbriche abbandonate sia rimasto impigliato qualcosa, cioè che abbiamo forse per anni raccontato che sì, l'alienazione, certo, l'inquinamento, l'impatto ambientale, il rapporto padrone-operaio, però poi dopo abbiamo un po' rimpianto qualcosa che è stato buttato via con la deindustrializzazione, cioè tutto sommato dentro le fabbriche nascevano anche storie, amicizie, solidarietà, vita. Sì, una grande umanità, no? Anche perché c'era questa accomunava dei tempi magari di lavoro piuttosto duri, comunque questo mettersi anche, cercare di fare delle piccole battaglie o grandi battaglie con il padrone, eccetera. Quindi questa solidarietà era molto forte. Questo film appunto è molto poetico, perché racconta questo aspetto. Io lì dentro, nel capannone a Mirafiori, ho trovato delle tracce di un'antica pergola con il nome di chi l'aveva messa, con l'uva arrampicante, no? Dove questi andavano magari a consumare il pasto sotto una pergola, no? Un modo molto del sud. Cioè questi contrasti all'interno del cemento di questi spiazzi, di questi capannoni, una piccola oasi ritagliata da operai del sud che portano lì un po' del loro modo di vivere. E Antonio, c'è anche stata l'anteprima, se non sbaglio, a Mirafiori. Com'è andata? Che clima si respirava? Ma è un grosso successo, una grossa partecipazione, perché vabbè, questo film è, diciamo, giocavamo in casa, nel senso che parla proprio di Torino, della fabbrica, di quel mondo che esiste ancora, ma è completamente cambiato, no? Deve andare a ritrovare le tracce appunto tra i vecchi che possono farti dei racconti, possono raccontarti qualcosa. È molto nostalgia, molta qualche lacrimuccia, qualcosa, no, perché comunque è un mondo e quindi anche una generazione che non esiste più. Antonio, prima, per chiudere con una battuta, Boris Sollazzo, raccontando La bella gente e promuovendolo, diceva: Antonio Catania è un po' il nostro Tom Hanks, cioè sa essere con la sua faccia normale buono per tante gradazioni di recitazione. Ti senti un po' il nostro Tom Hanks? Sicuramente sono ingrassato, forse sì. No, non lo so, un bel complimento comunque. Io insomma cerco di mettere un po' di me stesso in tutto quello che faccio, che poi la ricchezza maggiore è quello che siamo dentro e anche fuori, purtroppo. Quello sì, dobbiamo stare attenti sulla dieta. Senti Antonio, io ricordo quali sono le sale che programmano Mirafiori Luna Park, che sono il Cinema Romano e l'Eliseo di Torino, l'Eliseo di Milano, il Lumière di Bologna, il Greenwich di Roma, e il Massimo di Pescara, e il Mignon di Mantova. Li ho detti penso tutti, c'è il Macallè di Alessandria. No, lo dico perché non è di Alessandria ma di Castel Ceriolo. Li dico tutti, compresa l'Arena Garibaldi di Firenze, perché i film italiani di questo tipo hanno bisogno di sostegno, bisogna andare a vedere subito, perché se no poi li smontano, quindi bisogna subito andare a vedere questa piccola perla di italianità e di racconto di cosa siamo stati, magari per capire meglio anche quello che siamo. Quindi ricordiamolo sempre e ringraziamo Antonio Catania per essere stato con noi alla Rosa Purpurea. Grazie a te, grazie, un saluto a tutti quanti, andate. E allora, Antonio Catania è stato con noi per raccontarci Mirafiori Luna Park, ma noi abbiamo ancora un film da farvi assaggiare qui alla Rosa Purpurea, ed è un film iraniano di un regista che ha pagato e paga duramente con la propria persona, con la propria anche possibilità di fare cinema, il suo ruolo di oppositore del regime di Teheran degli anni passati. Si tratta di Jafar Panahi. Il film si intitola Taxi Teheran, ce lo racconta Chiara Pizzi. Questo film è chiaramente la situazione che c'è in Iran, è raccontata per sottrazione, tutto quello che non si può vedere, tutto quello che non si può fare, tutto quello che non si può sentire. Un film interessante, ha fatto quel che poteva fare in un paese che non permette molta libertà. Meno di così non poteva avere, ed ha fatto anche un bel film, devo dire. Loro hanno questo fanatismo, però alla fine ci accomuna comunque un senso di sopravvivenza, ecco. Bello, molto triste, allucinante, lontano mille miglia. Ci ho tenuto che venisse mia figlia di 14 anni per farle vedere che il mondo reale è diverso da qua. Il fatto di non poter pensare, non poter dire, non potersi muovere nel 2015, ma forse sono di più i posti come quello che i posti come questo. Sono le reazioni del pubblico davanti a Taxi Teheran, Orso d'Oro all'ultimo festival di Berlino. Sono le reazioni di chi vede un film fatto con mezzi esigui, ma con una forza straordinaria. Un film semiclandestino in un paese come l'Iran, dove il regista Jafar Panahi 5 anni fa è stato condannato alla prigione per aver sostenuto la rivoluzione verde contro il presidente Ahmadinejad. Non è stato incarcerato grazie al sostegno dell'opinione pubblica internazionale, ma non gli è consentito uscire dal paese e nemmeno fare il proprio lavoro. Qui l'espediente geniale: mettersi alla guida di un taxi e girare all'interno di questo. È un antifurto? Sì, in un certo senso sì. L'unica cosa sicura è che ha l'aria di essere un'ottima telecamera. Sta girando un film, non è vero? Per forza. Lei che fa l'autista di un taxi, signor Panahi? Che non è un documentario lo si capisce da qui, da questo spacciatore di DVD che smaschera il regista e i suoi attori, essendolo lui stesso. Andando avanti, però, si capisce che è un film che riflette sull'anima del cinema, sul confine fra finto e reale, su cos'è fare un film e su cos'è farlo in un paese come l'Iran. E ogni passeggero è una faccia di questo paese, dove la prima caratteristica di un film deve essere il poter avere una distribuzione, il che, comporta. Come enuncia la nipote del regista, secondo le regole dettate dalla maestra, non usare nomi persiani ma solo quelli dei profeti per i personaggi positivi che non possono nemmeno portare la cravatta, il rispetto del velo e niente contatti fra uomo e donna. Far vedere la realtà dunque, ma solo se non è troppo brutta. Ma non è la realtà che hanno creato loro, si chiede la bimba. Sì, è la risposta. Cosa fare allora? Continuare bene a fare il proprio lavoro e omaggiare la propria arte, ci spiega il regista con Taxi Teheran. Resistere, dice allo spettatore direttamente l'avvocato di Panahi, anche lei ospite del taxi. Trasformano la tua vita in un inferno. Fanno dei tuoi migliori amici i tuoi peggiori nemici. Guardiamo avanti e chi vivrà vedrà. Chiara Pizzibetti ci ha raccontato Taxi Teheran, un'altra proposta davvero interessante da andare a vedere al cinema in questo ricchissimo fine settimana. Si chiude qui la Rosa Purpurea, lo sentite dalle note della nostra sigla. Noi ci risentiamo fra 7 giorni, 72esima mostra di Venezia. Vi racconteremo tutto qui su Radio 24.